Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Per ora non hanno avuto molta fortuna, ma tra i tanti modi che si sono individuati per sfruttare l'energia del sole per produrre energia elettrica, i sistemi dish stirling sono tra i più efficienti, da un punto di vista almeno termodinamico. Stiamo parlando di sistemi cosiddetti solari, appunto termodinamici, cioè sistemi nei quali si concentra la luce del sole per raggiungere temperature elevate con cui poi produrre energia elettrica. Ne parliamo con Carlo Maria Bartolini, docente di impianti di conversione dell'energia dell'Università Politecnica delle Marche. Buonasera Bartolini. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Dunque, dichiariamolo subito. Il nostro intento non è tanto quello di presentare una tecnologia del futuro, quanto di fare una puntata un po' didattica. Poi capiremo perché. Dunque, cominciamo con descrivere questi sistemi. Come sono fatti questi dish stirling? Allora, l'energia solare viene raccolta da specchi che vengono concentrati in un fuoco. Possono essere configurati a parabola oppure sempre con posizione parabolica, fatti da tanti dischi, e per questo che si chiamano dish stirling, concentrano in un unico punto, che è il fuoco di questa parabola, nella quale viene posizionata la testa di un motore stirling, che è un motore a combustione esterna, comunque ad aria calda e a fluido di lavoro interno, a ciclo chiuso, che prende calore da una fonte esterna e quindi si presta molto bene a questa applicazione. Io e lei ci siamo sentiti qualche tempo fa, perché lei è un esperto di motori stirling, e ne abbiamo parlato come strumenti che possono essere utili nella cogenerazione. Sono appunto dei motori, tanto per dare un'altra definizione, che a differenza dei nostri abituali motori a scoppio non hanno la benzina dentro, cioè non ci si butta dentro il combustibile, ma il combustibile rimane fuori, senza entrare nei dettagli. È vero però che questi motori hanno rendimenti molto elevati? Parlare di rendimenti elevati di questi motori si può prestare ad un equivoco, perché il rendimento è elevato dal punto di vista termodinamico interno, vale a dire, se prendo come riferimento il calore che entra nel fluido di lavoro interno, vale a dire quello che nella testa riesce ad essere scambiato, il rendimento è senza dubbio abbastanza elevato, si parla del 30 o anche più per cento. Però se si prende in considerazione la quantità di energia primaria messa a disposizione, ovviamente anche per questi motori deve fare un conto di rendimenti abbastanza più bassi, e quindi in generale c'è ovviamente tutta la tassa da pagare sulla introduzione di calore, certo, al fluido, quindi lo scambio esterno. Cioè, mentre la benzina si riesce a buttare dentro tutta nei pistoni, esatto, qui la benzina, che è il calore, non si riesce sempre a buttare dentro tutta in questo motore. Il passaggio stirling tra benzina e calore scambiato fa pagare, come dire, un certo rendimento abbastanza elevato. Ecco, per un certo periodo si sono riposte parecchie speranze in questi sistemi di stirling. Invece adesso, insomma, sta venendo fuori in modo abbastanza chiaro che sono un po' schiacciati da un lato dal fotovoltaico, perché come il fotovoltaico non sono programmabili, insomma, e dall'altro da altre forme di solare termodinamico che invece sono programmabili anche se hanno un rendimento più basso. Lei cosa ne pensa? Sì, dunque, tutta il tema dell'energia rinnovabile per anni è stata segregata in un angolo. Poi negli ultimi anni, quando hanno preso più campo, ovviamente si sono scatenate le ricerche su tutti i vari settori. Ovviamente tra tutti i vari settori c'era anche il settore dello stirling termodinamico, e in particolare il solar dish. Mentre fino a qualche anno fa, e parlo diciamo 10 anni fa, gli stirling non avevano raggiunto ancora valori di efficienza elevati per potenze piccole, che sono proprio quelle che vengono applicate in questi sistemi, cioè potenze all'intorno e al di sotto chiaramente dei 10 kW fino a 1 kW elettrico. In questo periodo possono aver raggiunto, diciamo, queste efficienze interessanti, però purtroppo i costi di impianto e quindi i costi del finali per kilowattora prodotto non sono più competitivi, stando di fronte ad una tecnologia emergente dal punto di vista di efficienza, ma soprattutto dal punto di vista come riduzione di costi, che è quella del fotovoltaico, certo, che sta diminuendo sia per diffusione che per evoluzione tecnologica ormai i suoi costi, e quindi mentre prima pagavano un ritardo nello sviluppo, adesso pagano come dire, un ritardo nella riduzione dei costi e sono stati schiacciati appunto dal fotovoltaico. Ecco, allora le faccio una domanda. Quindi tutto il lavoro che si è fatto per sviluppare questi di Stirling è lavoro buttato? No, assolutamente, perché l'evoluzione tecnologica non è mai persa. L'evoluzione scientifica, in qualche maniera, e la ricerca non è mai un bene che viene perso come quando si bruciano i titoli in borsa, no? Non sono soldi persi. Questi sono soldi che comunque vengono spesi e rimangono come know-how. Si potranno probabilmente ritrovare e sviluppare più avanti, ma sicuramente attualmente tutta la tecnologia del tracking solare, tutta la tecnologia della messa a punto del sistema di concentrazione può per esempio avere una buona ricaduta nel fotovoltaico a concentrazione, che a questo punto è sicuramente quello che potrà raccogliere almeno una parte di questo. Senza contare che i motori Stirling a loro volta si sono perfezionati e trovano altre applicazioni, per esempio, come abbiamo spiegato insieme, nella cogenerazione. Professor Bartolini, io la devo salutare perché abbiamo finito il tempo. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Questo è tutto, Mr. Kilowatt torna domani, ci occuperemo di un settore di ricerca piuttosto curioso. Si sta infatti lavorando sulla produzione di energia a partire dalla differenza di salinità tra acqua dolce e salata. Scriveteci a mrkilowatt@radio24.it e mandateci i vostri dubbi, le vostre curiosità per quanto riguarda la normativa sulle rinnovabili e sul risparmio energetico, di cui ci occuperemo a partire da settimana prossima. Buona serata.